anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questo è il ritorno post estivo di Basement Records, del recupero vinilico di Basement Records. E come ci eravamo lasciati alla fine delle, anzi, a inizio di agosto, e qua ritroviamo ospite in regia a Basement Records, non a Radio Wombat, il buon reverendo. Evviva! Con i suoi dischi di recupero. Ciao Dama, buonasera, buonasera, grazie ancora per ospitarmi in questa bellissima trasmissione. Non vedo l'ora di far ascoltare un po' di robetta da questa soffitta. Se continuiamo, l'episodio 2. L'episodio 2, perché ricordiamo, questo appunto Basement Records per i neofiti è la trasmissione dei recuperi vinilici, appunto, da ogni dove, in questo caso dalle soffitte di una casa di campagna o dalla collezione dei parenti, dei genitori, dei fratelli, degli zii, di conoscenti, di sconosciuti, di recuperi ai cassonetti, perché c'è anche chi butta via i vinili, eh? Mannaggia! C'è anche dei folli che buttano via dei vinili, quindi il recupero vinilico può arrivare da tutte le parti, in questo caso dalla soffitta di una casa di campagna. Ma se ti conoscessero la gente non butterebbe via i vinili, perché tu sei in grado effettivamente di sviscerare tutti i retroscena che ci sono dietro queste fantomatiche registrazioni. Ma infatti non si dovrebbero buttare via, perché anche l'ultima delle registrazioni più scrause, comunque una qualche curiosità, un qualche aneddoto, specialmente a tanti anni di distanza, qualcosa si trova, qualsiasi genere sia, sia dal più pop e svergognatamente commerciale fino alla musica. Ma dovrebbe essere come i libri, che non si buttano mai via. Esatto, con me sfondi una porta aperta, no? Infatti vabbè. Chiunque ha questo problema poi inevitabilmente ha dei problemi di spazio abitativo. Certo, però ricordiamoci, tutto questo è possibile grazie alla nostra vita sedentaria che ci fa accumulare cose, suppellettili di ogni tipo. Vediamo in altre società se è possibile, però è un ricordo ancestrale, dai. Io mi ricordo mio nonno che non buttava via niente, nemmeno le cose, neanche uno spago, perché poteva essere utile un giorno per fare qualcosa. Il principio è lo stesso. E a proposito, io voglio ricordare alle gentili entità all'ascolto di scriverci, di farsi sentire, che abbiamo bisogno sempre di contributi, di nuove energie, abbiamo bisogno di nuova musica, abbiamo bisogno di consigli, di feedback, per cui questa è Radio Wombat, sapete già dove trovarla, ma soprattutto scriveteci. Abbiamo bisogno di tutto. Scriveteci a Posta Wombat @insiberia.net e scaricatevi bellissimi podcast dal sito. Stasera dal sito vi potete ascoltare anche, oltre ai vecchi podcast, potete ascoltare le dirette, i podcast delle trasmissioni concluse. È un po' un bell'archivio anche quello. Un piccolo mondo da esplorare, se ancora non ci siete infilati dentro. Voglio anche ricordare i nostri canali social, perché se nonostante siano, insomma, accettati malvolentieri comunque il Wombat è anche, c'è anche il Facebook, facebook.com Radio Wombat Fi, e addirittura anche Twitter. Ale, è vero. Su twitter.com Radio Wombat Fi. Ok, bene, grazie che me lo ricordi, io assolutamente non ne ho idea di sta cosa. Magari un giorno aprirò un bellissimo profilo Mastodon di Wombat in una qualche istanza, così potrò usarlo anch'io, dai. Esatto, andate a visitare anche i nostri canali social. Che se ne dica, comunque ci sono anche loro e vi servono per tenervi aggiornati sulle ultime novità della radio. Assolutamente, sì. Che riprenderanno dopo sta pausa estiva, dai, sta trasmissione. Ci vuole del tempo, i tempi del Wombat, si sa. Biblici. Dopo il Wombat va in letargo estivo e poi d'improvviso verso fine settembre e inizio ottobre ricomincia a svegliarsi come tutte le stagioni, pronto a arrivare fino a una nuova estate. Sì. E quindi possiamo dire che è l'inizio di una nuova stagione di Radio Wombat. Sì, assolutamente. La contiamo dalla fine dell'estate in poi, nel nostro calendario interno della radio. Sì. E speriamo di ricominciare col botto, dai. Sì, beh, sì. Già la prima traccia di stasera la dice tutta. Quando abbiamo letto il titolo, direi che era quasi doveroso metterlo come prima traccia di rientro dalle ferie. E qui stiamo parlando di un grande classico come artista, ovvero Gianni Morandi. Radio Wombat, mettete Gianni Morandi. Non abbiamo prelusioni verso nessun personaggio, nessun artista, nessun genere. E quindi perché non mettere Gianni Morandi? Soprattutto se la canzone cui stiamo parlando, di questo singolo che ora qua non riesco a vedere la data, ma è un 1970, e Gianni Morandi in questo 7 pollici insieme alla Piero insieme a Piero Pintucci e la sua orchestra ci canteranno e suoneranno Al bar si muore. Oh. Cioè, come si poteva non mettere un recupero di tale portata? Gianni Morandi che canta Al bar si muore. Poi sì, magari chissà, sarà solo un pretesto per il titolo e nella canzone ci canterà tutti altri argomenti, però non possiamo fare altro che verificarlo. Esatto, perché ascoltiamo i problemi negli anni 70 e capiamo quanto siano attuali oggi, dai. Sempre qui, ai recuperi vinilici di Basement Records, ovviamente, su Radio Wombat. 7.000 marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale. A New York, 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione. Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione. All'inizio della guerra nel Vietnam, 110.000 soldati americani sono morti. In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri dell'organizzazione. È mezzanotte, tutto va bene, tutto è tranquillo, dormite bene. Dimmi allora che cos'è questa angoscia dentro me. Sto con gli amici al bar, ma è come fossi là insieme a quelli che stanno morendo. Ah, stanno sparando, mano per te. Stanno morendo, mano per te. Ma per ognuno che cade giù muore una piccola parte di me. Telefonato a lei, pronto amore, come stai? Non ho bevuto, sai, però mi sento giù, sto coi pensieri miei a mille miglia e più. Stanno sparando, morendo, mano per te. Ma per ognuno che cade giù muore una piccola parte di me. Ma c'è gente che muore lontano dai suoi, e noi che si muore qui dentro di noi. Sento la vita che se ne va, anche stasera si muore nel bar. Sì, stanno sparando, prendi un caffè. Stanno morendo, ma pensa per te. Cade un gettone dentro il jukebox, il disco cambia, che musica è, ma che musica è. senti Gianni, l'impegno di Gianni nel 1970. Sì, assolutamente, politicizzato ma soprattutto d'archettone. Come sente il dolore della strada, il dolore del bar, il dolore delle giovani vittime di quegli anni? Guarda, non l'avrei detto, cioè che c'entra, eh? C'erano delle canzoni un po' più sociali, diciamo, anche nella discografia di Gianni Morandi, però uno se lo ricorda per cose molto più frivole, diciamo. E invece questo pezzo non era niente male. Ora noi ci siamo fatti fuorviare dal titolo, che era fuorviante in effetti. Sì. Io speravo parlasse d'alcolismo. Anch'io. Anch'io. Invece no. Invece siamo stati traviati dal titolo del brano, però niente male, complimenti. Un lato del Gianni sì. Nazionale che magari nel 2022, quasi fine 2022, un po' magari avevamo perso anche questa sua parte, diciamo, di impegno nel sociale. Più che altro 52 anni dopo, dai, interessante da essere ascoltato. Sì, no, ma infatti lo dicevamo fuori onda, è una delle peculiarità, delle cose belle, secondo me, appunto, dei vinili di recupero, è che nonostante appunto i vari generi che si possono trovare, però a sentirli con così tanti anni di distanza, comunque qualcosa di interessante, o uno spaccato del periodo, un modo di pensare, un modo di fare le canzoni, un modo di porsi verso certi argomenti con così tanti anni di distanza, anche in cose più pop e più frivole, appunto, è sempre una cosa interessante. Beh, ora sul pop ci andiamo. Questo ho paura che sia proprio inevitabilmente pop. Ma forse anche un po' il tema di stasera. Sì, dai. Ci sono dei grandi classici, anche se questo proprio classico non lo potrei dire. Ora, anche credo che sia roba abbastanza commerciale anche questo. Sicuramente. Perché vedo il simbolo di TV Sorrisi e Canzoni, che se qualcuno dei nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltaturu se ha più o meno la nostra età, si ricorda appunto che era questa rivista e anche un programma televisivo musicale, su roba ovviamente da classifica, tutta roba quasi solo ed esclusivamente commerciale, però diciamo che ha fatto epoca. E qui di epoca stiamo parlando del 1976, nel caso di questo Sette Pollici, di questo gruppo che per ora non mi sovviene, quantomeno non ricordo niente di loro, però sono i Chocolates, e la selezione di questo Sette Pollici va sul lato A, perché quando ho visto Ritmo Tropical, che dire, poi c'è una copertina bellissima, copertina notevole con una hot rod di quelle modificate americane, con le corna di bufalo sul cofano, con un'allegra banda di giovani, tutto fatto a fumetti, niente. E che dire, non so, dai cognomi potrebbero sembrare direi messicani, spagnoli, perché Tovale Edida de Gomez, però abbiamo il beneficio del dubbio, non ve lo saprei dire. E quindi che fare? Ascoltiamoci questo Ritmo Tropicale dei Chocolates e andiamoci un po' ad ascoltare di che cosa si tratta. naturalmente qui ai recuperi vinilici di Basement Records, ovviamente su Radio Wombat. Sbarazzina, eh? Sì, proprio canzone da Capodanno degli anni 70, immagino, righe di bamba ovunque, e camminetto acceso nella baita in montagna e intanto un sacco di pellicce e ritmo cocktail tropicale. Cocktail di gamberetti. Cocktail di gamberi. Penne al salmone e vodka. Vabbè, per fortuna io in quegli anni non c'ero, forse va bene così. Un po' troppo sbarazzina. Sono affezionato a disco samba. Infatti dicevamo fuori onda che un po' ci assomiglia, cioè la base era abbastanza, diciamo, sì, quel filone classica, nel stampino. Senso di quelle fatte proprio pom, sì. In sala di produzione. Poi le frasi... Vai, tieni questa, va bene. Le frasi stereotipate del Latino America. Venga, chico! Certo, sì, dai. Un cliché fatto vinile, sì, proprio. Sì. Però, dicevo, mi ricordava un po'... Cioè, mi ha fatto ritornare in mente tipo colonna sonora di Banana Joe di Bud Spencer. Mi ha dato un po' quell'impressione lì, questo ritmo tropical dei Chocolates. Disco proposto da TV Sorrisi e Canzoni. Beh, ci sarà un motivo. Effettivamente era abbastanza commerciale, diciamocelo tranquillamente. Però appunto, visto che mi ricordava una colonna sonora, quale migliore occasione, visto che ho qua per la mano una signora colonna sonora, storia, proprio storia, e stiamo parlando della colonna musica, come avrebbe detto e puntualizzato la Virgi che saluto, che ai tempi di delle prime puntate di Basement Records ce lo ricordava, ci teneva particolarmente a ricordarlo, che non si dice colonna sonora ma si dice colonna musica. Ah, penso. E questa è una signora colonna musica, infatti composta da Nino Rota, un grandissimo. Mm-hmm. Questa è la colonna musica originale di Il Padrino, The Godfather, ricantata però da un duo storico che praticamente riproponevano i grandi classici delle musiche da film, ovvero Santo e Johnny. E appunto abbiamo per le mani questo vinile del 1972, da quanto leggo, appunto Santo e Johnny con la colonna musica di Il Padrino, The Godfather. Dai produttori riassociati. Senti Santo e Johnny come se la sono riarrangiata questo classicone. Non male, non male. Pensavo a uno scopiazzamento proprio in carta carbone, invece. Invece sì, con un ottimo gusto di riarrangiamento, anche perché insomma andare a riarrangiare un golem come la colonna sonora di Godfather di Nino Rota, insomma io ci avrei avuto un attimo un po' d'ansia, diciamo. Invece devo riconoscere che hanno fatto un gran lavoro, sì, bella, sì. Bravi. Con la chitarra, col tremolo, bravi, devo dire che mi è piaciuta, bravi Santo e Johnny. sì, neanche troppo sdolcinata. No. Mandolino compare solo all'inizio, un po' di fisarmonica quella. Sì, comunque la ricolleghi subito alla canzone del Padrino, però con un arrangiamento diverso. Ci sta. Ce la siamo goduta. Ci stava tutto. Bravo Santo e Johnny. E ora, visto che c'era Santo e Johnny, adesso andiamo a un altro gruppo, diciamo, abbastanza classico italiano. Sono i New Trolls. Ale. Che eravamo in quel limbo del progressive, inizio della wave, poi va bene, New Trolls si sono anche spostati verso il pop con l'avanzare della carriera. Però sentiamoci, ora abbiamo questo vinile, questo ennesimo set, credo che stasera saranno solo 7 pollici, sì. Siamo solo sì. in formato 45 giri. La data esatta di pubblicazione di questo vinile non la trovo, però va bene così, ce ne sbattiamo altamente. Però appunto sono i New Trolls e mi ha particolarmente intrigato questa canzone che poi tra l'altro darà anche il titolo al loro LP di quegli anni, ovvero Aldebaran. Perché mi direte voi che mi ha intrigato questo titolo? Perché forse qui entriamo nella rubrica della settimana enigmistica, forse non tutti sanno che Aldebaran, dovrete sapere, cari, entità all'ascolto. Esatto. Aldebaran è una stella che fa parte della costellazione del Toro e in realtà è la stella rossa che compone quello che nella costellazione del Toro è l'occhio del Toro. Infatti Aldebaran è una stella rossa e funge nella configurazione della costellazione del Toro proprio come occhio rosso del Toro. Pensa un po' agli antichi che vista. Però direte, caro Penapoco, caro Dalai Lama, da dove sono venute fuori queste cose? E qui c'è la parte un po' più torbida della questione, perché storicamente nella zona di Firenze Aldebaran era un vecchio cinema, direte voi, e quindi era un vecchio cinema a luci rosse, e quindi mi era rimasta questa cosa nei ricordi da bambino, perché era vicino Era vicino alla casa di dove abitavo con i miei genitori, e quindi mi era sempre rimasta in mente. Se ve lo state chiedendo, no, non ho fatto in tempo a frequentarlo perché ha chiuso prima che io raggiungessi la pubertà. quindi non ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta andare a gustarmi il palinsesto di questo cinema d'esse. Però ti sei interessato del nome, in Sono effetti, un nome molto nome, curioso. Che... Perché è un nome strano, effettivamente, se non sai da dove arriva, Aldebaran. E da lì scoprì che era il nome della stella che fa da occhio alla costellazione del Toro. Non male, vabbè, dovremmo chiedere ai New Trolls, perlomeno che non ce lo spieghino poi adesso nella canzone, da dove è arrivata la loro ispirazione per chiamare il pezzo con questo nome. Beh, sentiamocela, magari ci dà saranno qualche... passati da Firenze, da Via Baracca, anni 70, anni 80. Erano rimasti talmente tanto impressi. Ascoltiamoci allora Aldebaran dei New Trolls. Dai. Sempre qui al recupero vinilico di Basement Records, sempre qui a Radio Wombat. Ale ale, buon ascolto. La pace intorno a me non bastava più. Là sentivo marinai che cantavano. Avrò diritto anch'io di decidere se ho voglia di sparare o di arrendermi. Diciamo che probabilmente questa Aldebaran credo che avessero già iniziato la loro fase calante della carriera. O mi ricordo male io e mi sto confondendo con i gruppi, ma no, appunto, no, mi veramente sembra, non ci sta. No, ho sentito proprio, come dicevamo fuori onda, questa... Questo, questo cugine di campagna style con questo falsetto stonato. Ci dispiace un po' avervi portato su questa strada. Questa Aldebaran, possiamo tranquillamente dire che il suo tempo si sente tutto. Nonostante questo non lo cestiniamo. No, assolutamente no. Sì. Perché? Magari il lato B è bello, ma ce l'ascolteremo un'altra volta, magari. il lato B è quella carezza della sera, secondo me. Visto come era il lato A, avrei molta paura, appunto, a mettere il lato B. No, va bene, fermiamoci qua con New Trolls. Sì, no, magari se ritroviamo qualche altro vinile di recupero, qualche altra possibilità, le la possiamo dare. Ora, anche qua ci eravamo fatti fuorviare, specialmente io dal titolo. Avevo iniziato a fare voli pindarici, immaginando chissà cosa, invece no. Ci siamo ritrovati i cugini di campagna sotto il falso nome di New Trolls. Però va bene così, è giusto. Non può sempre andare bene, sono vinili di recupero, se no sembra che poi uno li seleziona prima, ma avevi messo solo, no, c'è guardate. Di tutto e di più, giustamente. Radio Verità. Esatto, Radio Verità, e qui a proposito di verità... Però qua in teoria andiamo sul sicuro. Perché... sono uno storico gruppo francese degli anni 70, e qui in questo caso, se non vado errato, 1976. Poi francesi solitamente non è che abbiano mai avuto chissà quale enorme successo qui da noi, a parte appunto Serge Gainsbourg e Jane Birkin, oppure... qualche altro sparso qua e là, però ecco, si tratta dei Rockets. I Rockets sono famosi perché è uno dei gruppi partiti dalla Francia, che poi hanno avuto uno dei più grandi, cioè un discreto riscontro commerciale anche nel resto d'Europa, perché in Francia, come in Italia, specialmente nei decenni passati, il problema era che la musica che veniva fatta in italiano e in francese da artisti italiani o francesi per il mercato locale, poi per essere esportati nel resto dell'Europa difficilmente avevano mercato, se non quando venivano tradotte in inglese. Invece i Rockets riuscirono ad arrivare sicuramente da noi, perché era un gruppo conosciuto in Italia, probabilmente anche da altre parti d'Europa. Me li ricordo soprattutto per la loro mise, appunto, per il loro look, perché era estremamente particolare. Possiamo quasi, lo dicevamo fuori onda, possiamo quasi considerarli un po' dei progenitori dei Daft Punk, perché appunto andavano in scena tutti completamente argentati, con la faccia argentata, vestiti proprio come sembravano degli androidi, dei robot, con questi strumenti, cioè appunto con questa chitarra fatta a stella, cioè molto... molto particolari, infatti. Belli appariscenti. Molto appariscenti. Me li ricordavo appunto per i loro costumi di scena, che, se vogliamo, come dicevo prima, un po' anticiperanno quelli che poi saranno i loro nipotini francesi, anche se in ambito elettronico, appunto, i Daft Punk. Possiamo un po' definire, diciamo, i progenitori. E questo 7 pollici, appunto, del 1976 dei Rockets. È Apache, cioè ascolteremo Apache. E andremo a sentire appunto come suonavano questi Rockets. Vediamo, sono molto curioso del sound. La misera! Sì. No, anche la copertina è spettacolare. No, non vorrei dire probabilmente l'ennesimo sfondone di Basement Records, ma se non ricordo male, almeno una volta furono anche ospiti a Sanremo. Addirittura? Sì. Ah, dai, lo cerchiamo, ci documentiamo, sì, nella pausa. Dovrebbero essere stati anche ospiti a Sanremo, quindi proprio per ufficiare il loro successo internazionale fuori dalla Francia. Si sa, se vai a Sanremo sei qualcuno. Se, soprattutto se non sei italiano. Esatto. Bene, questi sono i Rockets con Apache, sempre qui, Radio Wombat, Basement Records. Buon ascolto. We'll be right back. beh, dai, non ce l'aspettavamo. No, no, no, no, no. C'era un motivo per il, c'era un motivo per il titolo, eh. Sì. Chissà perché, chissà perché. Sì, bella, bella citazione, bel remake anche questo. Direi più che una citazione dal nostro Ennio Morricone, nel suo periodo western, neanche tanto sotto traccia, direi, come... Allora, come citazione. Cioè, Wikipedia mi dice che i Rockets si presentarono poi rapati a zero, struccati con gilet gialli, e propongono negli anni, a metà degli anni 80, dell'84, Imperception, album di buon riscontro, il cui singolo Under the Sun divenne la sigla di chiusura del Festival di Sanremo di quell'anno. Ah, quindi non erano ospiti, ma... ma autori della sigla di chiusura di Sanremo dell'84. Wanama. Però avevano cambiato look. Non erano più argentati e robotici. No. Però siamo passati così inspiegabilmente alla disco. Sì, direi che questo è un segno del destino, eh. È un segno del destino perché abbiamo qui tantissimi sette pollici che secondo me... possono andare in quella direzione, e visto che anche sabato sera il mio amore viscerale per la disco... Vai, lasciamoci trascinare. Direi che possiamo continuare sì. tranquillamente così. E ora, sempre il punto di contatto tra i due brani e l'anno, anche questo sette pollici che ho in mano è del 1976... Stiamo parlando dei Silver Convention e questo pezzo è Get Up and Boogie, che beh, direi un classicone, però ascoltiamocelo perché poi, non contento, Get Up and Boogie, classicone, però secondo me potrebbe anche il lato B potrebbe stupirci. Io sono d'accordo, ascoltiamoceli tutte e due e vediamo. Sì, ascoltiamocelo. Ovviamente sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Grappen Boogie. Beh, è un classicone, che speravamo che a un certo punto di aumentare la velocità. Sì, ero già tentato di picciarla a più 5 per dargli tutta un'altra spinta. Si avrebbe fatto volare gli ascolti di Radio Wombat. Un maledire, dipende da chi ci stava ascoltando. Comunque, nel frattempo siamo andati su Wikipedia e abbiamo scoperto che i Silver Convention sono un gruppo femminile tedesco. E non ce l'aspettavamo, anche perché poi la formazione hanno tutti fondamentalmente nomi, cognomi americani o inglesofoni, a parte Ramona Wolf, però insomma. E hanno fatto un bel po' di album, un bel po' di raccolte, singoli, ma il loro pezzo più famoso è Fly Robin Fly, dell'anno precedente, il 75. Secondo me era più famosa che Tappen Boogie, però va bene, sì. Lo accettiamo da Wikipedia. Però vi stavo dicendo che il lato B è interessante, perché il pezzo del lato B si chiama Son of a Gun, che teoricamente in slang sarebbe figlio di puttana, equivalente di Son of a Bitch, però. E quindi cosa ci dirà questo pezzo? Sarà sempre disco? Saremo sempre più o meno verso quelle latitudini. No, speravo venissero fuori i cugini di campagna anche stavolta. No, basta. già non posso vedere l'originale, figuriamoci poi una riedizione disco tedesca. Cioè, sarebbe un po' un'apocalisse, ecco, non oserei pensare cosa potrebbe venire fuori. Va bene, allora comunque potrebbero anche migliorare. Sentiamo che profondi temi ci riserva questo lato B. In Son of a Gun, appunto, come quasi tutte le canzoni disco che dicevamo, tanto dicono tre massimo cinque parole. E poi ripetono. E poi le ripetono. E poi ripetono. Disco ti doveva fare ballare. L'importante era che ti facesse muovere il culo, fondamentalmente. Perché distinguere tra strofe e ritornello? Esatto. Perché massimo un riff. Sì, no, prima, in realtà... prima dell'avvento della disco, quando la gente andava a ballare in discoteca, l'uso e il costume era che ogni due brani ballabili ci doveva essere, diciamo per forza, mettetelo tra virgolette, un lento. Cioè, la prassi prima dell'avvento definitivo, appunto, della disco, da metà degli anni 70 in poi, quando poi c'è stata la definitiva esplosione, quando all'inizio degli anni 70 chi metteva i dischi per far ballare la gente, quelle che comunque non erano già più balere ma erano discoteche, perché c'erano persone a mettere i dischi per far ballare la gente, la prassi era quella, massimo, cioè, dopo il secondo, terzo disco ballabile dovevi mettere un lento, perché la gente andava in discoteca, come succede ancora tutt'oggi, per carità, però diciamo che la prassi musicale era formalizzata in un altro modo. Esatto, era formalizzata in un'altra maniera. E sentiamoci se questa Son of a Gun è ballabile, credo proprio di sì. Dai. Sempre qui, Basement Records, Radio Wombat. Senti, senti questi Silver Convention. Pensavamo a un brano disco, invece. Invece ci ritroviamo nel funk. Funk, guarda, funky soul. Mi ricordava con questi archi, mi ricordava molto il suono Philadelphia International. Che ci ho fatto addirittura due puntate su Tonight Alive. Solo sulla discografia della Philadelphia International, se vi piace andatevela a recuperare. E comunque sì, pensavamo a un classico pezzo disco, invece ci siamo ritrovati quest'altra roba. Beh, ma io mi stavo guardando un po' il testo di sta canzone, ma boh, non so se prenderla bene o male. Fondamentalmente c'è la voce femminile, il coro che dice tu figlio di puttana, e c'è questa voce maschile di questo tipo stereotipato molesto che vabbè, dice frasi altrettanto stereotipate, tipo ah no dai prova a dimenticarlo, ah no ti ho fatto così male ma ora sono tornato, e perché non stai con me stanotte, spegni la luce, ah stringimi forte, venimi e più vicino. C'è un'altra cosa rispetto a cosa avevamo detto prima, appunto canzoni disco ripetevano pedissequamente per tutto il pezzo le solite tre frasi, invece qua non è diverso. C'è anche un discorso appunto di rapporto uomo-donna, di sfruttamento. Sono Vagan non a caso, sì. Anzi, senza probabilità. Vabbè, lui insiste parecchio e cambia ogni strofa, dice sempre cose diverse, invece la risposta è sempre no, figlio di puttana, smettila. E probabilmente c'erano stati dei precedenti, dobbiamo supporre. Niente di nuovo sotto il sole. Visto niente di nuovo sotto il sole, qui stiamo andando in un altro grande classicissimo di dimensioni stratosferiche e siderali, perché credo anche uno dei pezzi miei preferiti della sua intera discografia, insieme a un altro paio di pezzi che potrei salvare. Non a caso infatti qui era prima che diventasse bianco, stiamo parlando di Michele Giasone, per gli amici Michael Jackson, e qui era da poco fuoriuscito dal gruppo 4. Dei fratelli, dai Jackson 5, e questo fu un botto incredibile, perché è un pezzo straordinario, Don't Stop Till You Get Enough, un pezzo che ha un tiro e che dire, è veramente incredibile. Anche quello è stato, che questo è stato un grandissimo classico, passata ancora tuttora, perché secondo me non ha perso veramente un grammo della quintessenza che è questo pezzo. Un pezzo funky, ballabile, cioè praticamente prima che anche, ma si sa, con l'età poi quando uno si abitua al successo finisce sempre poi in ambiti pop. Qui ancora il nostro Michele Giasone aveva una pompa inaudita, doveva dimostrare tutto dopo che era uscito dal gruppo con i fratelli, e questa secondo me è una bomba atomica. No, va bene, anche noi più belli che abbia mai cantato nella sua intera discografia. E poi c'è poco da dire, quando ancora era del suo colore originale era troppo più bello. Assolutamente. Era assolutamente troppo più bello. Dai, sentiamocelo. Siete pronti a muovere il culo? Ale. Dai! Sempre qui su Radio Wombat, questa è Basement Records. Yeah! Stop. Allora, beh, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo ascoltati un bel pezzone di Michael Jackson. Poteva essere tranquillamente in extended version e poteva andare avanti, Sì, a penso, dritto proprio. almeno per un'altra mezz'ora Sì, ce la abbondante, saremmo ballata in loop comunque. poteva andare. Bello, bello, intramontabile. Sì, questo a proposito di reggere i segni del tempo, questo non ha perso neanche un grammo di quello che era nel 79 e lo è ancora tranquillamente tutto alla fine del 2022. Ale, il Michelone. Di Michelone. Appunto, siamo in zona disco e quindi continueremo. Essendo poi appunto sabato sera, perché ormai mi hai fatto partire, Non ci si ferma è più. un casino, No. casino poi è fermarmi, No, capito? ci devono buttare fuori gli altri bombati. Esatto. Verrete salvati solo da questo dettaglio stasera, Eh sì. per l'impellenza delle altre trasmissioni. E quindi avrete qualche possibilità di salvarvi, Altrimenti, forse. una puntata di 5 ore. Oh, potremmo. Sì, si può fare tranquillamente after con i dischi disco. Se poi avessimo anche ancora tuttora funzionante il secondo giradischi e anche il Ciao. mixer funzionante, si potrebbe fare proprio Sì, direttamente un a mixato, ma quel punto la smetteremo anche di di parlare, di parlare, invece che annoiarvi. dovrete sorbirvi ancora le nostre stronzate almeno fino alla fine della puntata. Però appunto parlando di disco, torniamo dal 79, torniamo al 1976, che quest'oggi credo che sia l'anno L'anno più più gettonato. l'anno più gettonato. Anche Gianni Morandi era. No, scusami, Gianni era Morandi il 70, era il era 70. 70 spaccato. Era 70 spaccato e qui torniamo nel 1976 con questo gruppo che si chiama, no, non è un gruppo, è un solista, è Jess Green, con un pezzo che è Nice and Slow, un altro classicone disco. Che dire, la disco è da ballare, non è che c'è tanto da ragionare. Continuate a essere pronti a muovere le chiappe, e questa appunto è Jess Green con Nice and Slow. Sempre qui su Radio Wombat, sempre Basement Records, buon ascolto. Thank you. like a lover should. You set my soul on fire. You get me gone, go on and on. You see the flames go higher. Leave that in vain. Don't let it fade. Give it room alone. Classico anche questo, classico. Chi non l'ha mai sentita. Comunque, sempre curiosando su Wikipedia, abbiamo scoperto che Jesse Green non è altro che Loxley Alfonso Green ed è un artista giamaicano. Eh sì, che insomma ha suonato un bel po' e ha sfondato nel 76 con Nice and Slow, è veramente finito in cima alle classifiche europee. E boh, speriamo per lui che abbia fatto un po' di soldi e poi abbia anche smesso. che si sia potuto andare direttamente in pensione con i proventi delle sue opere. Assolutamente. E cosa andiamo ad ascoltarci ora? Rimaniamo nel solco? Rimaniamo più o meno nel solco, anche se qui, secondo me, l'atmosfera si fa più torbida. Si fa più torbida nel senso che sarà meno disco, ma sarà più soul. Infatti stiamo parlando del gruppo vocale, della backing band di Barry White, che erano le Love Unlimited, che poi appunto poi Barry White inizierà anche a produrre dischi al loro nome, e quindi non saranno più solo e semplicemente il trio vocale di Barry White, ma appunto sotto il nome Love Unlimited avranno una vita propria, sempre con tutto scritto, arrangiato e prodotto da Barry White, ovviamente. Okay, uno spin-off. Esatto, uno spin-off. Non è una. Era una cosa non così rara. Succedeva nel. Certo, quando stiamo parlando di grandi produttori, ovviamente. Però non era una cosa così desueta, ecco. Mm. Specialmente in certi ambiti musicali, quando provieni, che ne so, dal soul, dal rhythm and blues, quando avevi un gruppo d'accompagnamento dietro. Se il band leader aveva tanto tanto successo, potevi far andare che ne so, Diana Ross e le Supremes. Poi quando Diana Ross decise di salutare le Supremes e andare per la carriera solista, poi le Supremes non con altrettanto successo faranno anche una carriera a sé stante. Ci sono in certi ambiti musicali non era così inconsueto, ecco. E cosa ci andiamo ad ascoltare quindi ci andremo ad ascoltare le Love Unlimited con High Stepping High Dressing Fella delle Love Unlimited, appunto il trio vocale di Barry White. Qui stiamo parlando del 1979. Yeah. pezzone. Eh sì. Anche se vi andate a leggere il testo capirete un po' qual è lo stile dell'epoca, soprattutto che questo high stepping, high dressing fella era uno che aveva sempre la macchina pulita e quando era sulla scena aveva sempre la folla intorno a lui, insomma, essere bello popolare con i pantaloni a zampa, sempre pulito con i capelli corti in ordine, molto sempre polite, sempre uptight e insomma il tipo di uomo che una donna vuole intorno. Questi i messaggi del 79 del Love Unlimited. Comunque non male. Non male. Poi si sente, insomma, cioè, che c'è qualcuno dietro che ci sa mettere le mani nell'arrangiamento e nella creazione dei pezzi. Infatti poi commentavamo anche che questo arrangiamento qua è stato campionato 70 milioni di volte. Specialmente la parte iniziale in un sacco di... di pezzi magari anche un po' più deep della house è stato veramente campionato e riusato in 100 miliardi di modi diversi. Quei primi 10 secondi iniziali di questo pezzo penso che l'abbia campionati proprio la qualunque proprio. Un sample decisamente sì, sfruttato. Assolutamente, ecco. Assolutamente sì. Vabbè, chiaramente poi è questo il modo in cui ha agito gran parte della scena, nella scena elettronica in che generale, ha preso pezzi, certo, è campionato certo, giustamente. Elettro, hip hop, techno. Ma probabilmente un po' come facciamo anche noi, che prendiamo certo, quello che ci interessa e il resto certo, lo buttiamo via, certo, va bene così. Certo. Vampirizziamo. E ora andiamo ad ascoltarci, beh, un altro gruppo molto molto rinomato e te lo lascio introdurre, guarda. Molto molto molto famoso, beh, che dire. Boney M è uno dei grandi classici della disco più conosciuta, quella più commerciale, diciamo, quella che ha avuto quella da Studio 54 di New York, ecco, quella proprio più a galla, più mainstream del genere disco, che in certi ambiti, specialmente come nel nostro, è un genere estremamente denigrato, ma da estimatore ti devo dire che se uno poi va a indagare, cioè io sono follemente innamorato della disco, ma c'era oltre a appunto Daddy Cool di Boney M, che è appunto il loro brano più famoso, ma uno dei brani più famosi della disco commerciale in generale, c'erano delle chicche e della sperimentazione i cui frutti poi li vedremo, si saranno visti solo anni e anni più tardi. La house non sarebbe esistita senza la disco. Per farvi il primo esempio che mi viene in mente, poi c'è anche chi non può neanche tollerare la parola house, perché diciamo che adesso ha un po' perso quel significato che aveva inizialmente negli anni Ottanta, un po' come la techno, cioè, uguale, cioè, parlando con i giovani, appunto, se si parla di house e techno, ne hanno, diciamo, una visione giustamente come è oggi ai giorni nostri, che è un po' tutto uguale, addirittura cioè, ormai i DJ non suonano nemmeno più, mettono le chiavette e fanno finta di suonare facendo solo i versi con le braccia, non mixano neanche più, anzi non mettono neanche proprio più le canzoni, penso lo saprete, ormai quelli più famosi si fanno fare le playlist o i mixati nella chiavetta, le mettano nel CDJ, fanno finta di suonare e di mixare. Non so, l'internet è pieno, strapieno di video di DJ che fanno finta di suonare senza nemmeno la console, oppure con la console spenta, con la console staccata, mandando solo una playlist. Ecco, da vecchietto vi posso dire che inizialmente era proprio tutta un'altra storia, e magari se vi piace il genere, che so, avrete tempo di indagare. Non posso aprire questa parentesi infinita su cui potrei parlare per millenni. Speriamo saldi fuori una bella cassa di vinili un po' più recenti sto punto. Qualcosa di quello trovato nelle passate puntate. Era capitato di trovare un po' di roba dance, diciamo, più che house e techno. Specialmente era domani te lo dico, vabbè. Era acid house di fine degli anni 80, quindi cioè quell'esplosione avvenuta con l'incontro fra Ibiza e Londra, che poi nella seconda Summer of Love del 1988 genererà l'acid house, che fu quel cortocircuito appunto tra l'incontro tra i ritmi, tra i flascidi ritmi ibizenchi e la club culture della terra d'Albione, e da lì nascerà appunto alla fine degli anni 80 l'acid house, che già è una cosa diversa, è un ramo della house, certo. Tipico. Poi appunto di questo, uno se le va a ascoltare, cioè, tutto questo suono molto vintage. Certo, come sempre, una cosa che si sente appunto recuperando i vinili, andandosi ad ascoltare magari anche cose vecchie meno conosciute, oppure un po' più di nicchia così. Certo, come tutte le cose, certe produzioni sono riuscite a mantenere un suono, una sonorità e una piacevolezza anche con il passare di tutti questi anni, che ormai tra ridere e scherzare, insomma, sono passati 30 anni, e altri inevitabilmente, come dicevamo prima in uno dei pezzi precedenti, invece il tempo si fa inevitabilmente sentire. E quello è... No, va bene, giusto così, ci siamo. Cioè, ci sono quelli che hanno retto più o meno bene il tempo, quelli che hanno fatto più o meno scuola, ecco. Appunto, il pezzo di prima, delle Love Unlimited... La prima cosa che ti ho detto appena partito, i primi 10 secondi di quel pezzo, è questo, cioè l'hanno campionato in un'apoteosi di artisti di ambito elettronico, ecco. Dai, torniamo sui buoni M. Torniamo sul pezzo, non ci disperdiamo. Anche perché il tempo sta scorrendo, e quindi questi sono i Bon AM con Belfast. Sempre qui su Basement Records, Radio Wombat, evviva! Belfast. Belfast. Belfast. Got to have a belief in. Country rings the living bell, you're lost. Belfast. That's changing. Oh, it's a country that's changing. It's a country that's changing. All the people, 'cause the people are leaving. It's a world that's deceiving. Oh, it's a world that's deceiving. It's a world that's deceiving. All the people, 'cause the people believe in you. Belfast, Belfast. When the country rings the living bell of your last. Belfast, Belfast. When the hate you have for one another's past. You can try, you can try, you can try, you can try, you can try. Children believing, when the children believing, when the children believing, all the people, 'cause the people are leaving, when the people are leaving, yeah. Ed erano i Boney M con Belfast. Leggevamo giusto una curiosità, che questa canzone non era stata scritta per i Boney M, bensì per Marcia Barrett, che è una componente dei Boney M, che poi durante i primi concerti dei Boney M, insomma, lei si esibiva con questa canzone per fare un po' di ciccia, e l'ingegnere del suono del gruppo notò che effettivamente riscontrava un certo successo tra il pubblico, così il produttore Farian decise di inciderla come Boney M, e effettivamente riscosse un certo successo. Anche in Italia, nella classifica musica e dischi, arrivò alla 20ª posizione. Però, e noi non la conoscevamo. Non la conoscevamo, alla fine, story. Per essere un pezzo riempitivo per appunto... per vedere di far andare un po' più avanti i concerti, devo dire che niente male. E appunto siamo giunti quasi al cambio di guardia qua in regia, e quindi con l'ultimo brano per stasera chiudiamo con lo stesso genere. E qui stiamo parlando di Roberta Kelly con Zodiacs, che nel caso in cui aveste ascoltato la puntata monografica di Tonight Alive su Giorgio Moroder, sapete già di cosa stiamo andando a parlare. Infatti questo pezzo è scritto e prodotto da Giorgio Moroder e Pete Bellot, il duo delle meraviglie della disco music della Baviera degli anni 70 e 80. Quello era un periodo magico. Infatti erano riempiti di richieste per produrre veramente qualsiasi cosa, e il nostro magico duo, ovviamente, una volta che sei sulla cresta dell'onda, è bene riuscire a sfruttare la spinta dell'onda fino alla fine. E quindi hanno prodotto una notevole quantità di brani. Questo è uno di quelli, tra l'altro questo Zodiacs ebbe anche un discreto successo, cantato da, appunto, da Roberta Kelly, però è tutta farina del sacco di Moroder, di Moroder e Pete Bellotte, ovviamente. E comunque sì, tra le varie cose con cui che hanno prodotto in quegli anni, questo è, se non vado errato, del 77, poi. 77, quindi insomma ancora nella fase del pieno del successo, nemmeno nella fase calante della carriera. Qui erano proprio, cioè, stiamo parlando appunto di tutti i grandi successi scritti con Donna Summer. Quindi eravamo proprio all'apoteosi della morodermania, ecco, per certe, in quell'ambito musicale lì. E questa è una delle sue tante collaborazioni esterne dalla sua storica, appunto, con Donna Summer, con Roberta Kelly. Questa è Zodiac, 1977. Sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. ed era Zodiac di Roberta Kelly. E per stasera era l'ultimo disco, purtroppo. Come dicono i pescatori, a questo punto giunti, acqua fina coglioni e pesce punti. E va bene così. E va bene così per chiudere questo sabato sera, Ci risentiamo tra un po'. L'ho già usata altre volte, che non è proprio una delle migliori chiusure per chiudere un programma, ma lo diceva sempre un mio amico e questa cosa mi è rimasta in mente. Ma ha sempre fatto tanto pesci ridere. Punti, ma ci siamo divertiti, dai. Ma ha sempre fatto tanto ridere. Bene, quindi non possiamo fare altro che rinnovare l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat con le trasmissioni che ricominceranno appunto domani mattina, domenica mattina, e il palinsesto che poi continuerà a andare con le varie trasmissioni. Che dire, alla prossima. Alla prossima, rimanete. Buon sabato sera, buon fine settimana a tutti. Continuate a seguire il Wombat sempre su radiowombat.net e accendete la radio sulla M. La radiolina 1359 e AM fissa. Ale. Buonanotte. Buon weekend. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.